Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati ai Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che torna sul progetto Nuvole Ribelli. Di cosa si tratta? È un'iniziativa promossa dal CRAP, dalla Città Fujiko, dell'Associazione Sopra i Ponti, che vuole fare un'indagine su un quartiere, in realtà su un rione, quello della Pescarola, ai margini della città. Quindi parliamo di un quartiere molto periferico, e l'abbiamo fatto con una metodologia credo molto innovativa, ovvero lavorare un'indagine sul quartiere non tanto traendolo da saggi, cifre o fredde statistiche, quanto andando a sentire dei cittadini di questo quartiere per sentire le loro speranze, le loro aspettative e i loro problemi. E per far questo abbiamo utilizzato il fumetto come strumento di comunicazione e creazione. Innovativo è stato anche il gruppo che ha lavorato su questo progetto, in parte studenti universitari delle belle arti o del DAMS, in parte adolescenti del quartiere stesso, dei operatori dell'informazione e due tutor, Antonella e Marta. Siamo a tre quarti, forse qualcosa di più, del lavoro, siamo nella stesura finale dei balloon, quindi si prevede che tra qualche mese avremo questo graphic journalism che appunto racconta, seppure anche in maniera fantastica, un quartiere periferico di Bologna. A suo tempo, ad ottobre ancora, prima che partisse l'operazione, abbiamo sentito Antonella di Sopra i Ponti che così ci commentava il progetto. Si creerà questo gruppo, questo workshop, fatto da una parte di persone che lavorano sul fumetto e dall'altra con persone del quartiere, per dar vita, creare l'intelaiatura generale di questo fumetto, che poi dopo Natale magari avrà proprio una sua sintesi nelle nuvolette. Sì, ci sarà una prima fase appunto da partire dal 26 ottobre, abbiamo pensato, una prima fase appunto di ricerca, di inchiesta, che è la fase diciamo giornalistica del graphic journalism, che servirà per raccogliere del materiale narrativo grezzo, diciamo così, su cui poi lavoreremo per costruire una sceneggiatura o più sceneggiature, vedremo se intrecciate giusto apposta, e questo è una cosa che si deciderà sul momento, capendo il materiale che avremo tra le mani. E pensiamo di farlo con il metodo del brainstorming, cioè farlo collettivamente, trovarci a discutere insieme e a analizzare ciascun personaggio, ciascuna storia, ciascuna situazione affrontata e conosciuta, e capire quali lati far emergere e come inserirla. Quindi sarà un lavoro anche proprio per i giovani in particolare che parteciperanno, anche di consapevolezza del potere dei media, cioè come da materiale grezzo si arriva ad un framing di un certo tipo, facendo uscire in un certo senso il significato che si vuole, cioè si può partire da una storia e arrivare a qualsiasi punto. Quindi questo sarà anche un lavoro di, appunto, di conoscenza di questo tipo di realtà, di lavoro sulla narrazione. E poi, una volta costruita in questo modo insieme una sceneggiatura, chi vorrà, in maniera su base volontaria, farà la parte del disegno, che invece è una parte che va fatta ovviamente molto più in autonomia. A sei mesi dall'iniziativa siamo andati a monitorare, intervistando i ragazzi che hanno partecipato a questa operazione, partendo però proprio da Antonella, per confrontare quello che ci diceva allora, l'ipotesi, e quel che ci dice oggi, un risultato, seppure ancora parziale, comunque significativo. Antonella, noi già ci siamo sentiti quando abbiamo presentato il progetto in ottobre. Come stanno andando le cose? Come era tutto previsto, oppure vanno in modo work in progress? Dunque, vanno molto meglio delle previsioni, secondo me. O meglio, io avevo più o meno in testa uno sviluppo di questo tipo, ma essendo una cosa estremamente sperimentale, che non avevo mai fatto e credo che nessuno avesse mai fatto in pratica, non era per niente scontato che funzionasse così come da programma. Invece, fino adesso ha funzionato tutto molto al di là delle previsioni, cioè la costruzione della storia è stata partecipata, entusiasmante, tutti ci hanno messo qualcosa del loro. I partecipanti sono degli ottimi disegnatori, più o meno tutti quanti, quelli che si sono impegnati. Le interviste sono state molto interessanti, la conoscenza del quartiere, che non conoscevamo, quasi nessuno di noi conosceva, è stata una scoperta. Quindi, che dire, penso che verrà fuori un buon lavoro, nonostante tutto. Questa esperienza che puoi avere può essere anche un paradigma, un modello replicabile, oppure è una tantum? Ma io penso di sì, il metodo sicuramente può essere proponibile. Certo che ci vuole molto impegno, anche le professionalità giuste, cioè ad esempio abbiamo coinvolto una giovane grafica dell'Accademia, insomma ci sono, sì, bisogna un po' lavorare sulla progettazione e sull'organizzazione, ma si può replicare, sì, credo di sì. La parola ai ragazzi che hanno lavorato su questo progetto, contribuendo, pensando, intervistando e facendo i fumetti. Cominciamo da Sara. Quando ti sei iscritta a questo workshop, ti aspettavi quello che stai vivendo oppure qualcosa di diverso? Allora sì, però in realtà lavorare sullo storyboard è stato anche oltre le mie aspettative, nel senso che mi è piaciuto molto il lavoro che, cioè di sicuro mi aspettavo di trovare gente già, cioè comunque appassionata, vicina al fumetto, all'illustrazione. Però il modo in cui abbiamo costruito collettivamente lo storyboard è stato molto più interessante di quanto mi aspettassi. Tu eri una consumatrice di fumetti oppure no? Sì, molto. Graphic novel, fumetti sì. Storici. Da quando sono piccola leggo manga e poi dall'adolescenza ho iniziato a leggere graphic novel. Quindi sì, già ne leggevo parecchi. In questo workshop qual è il passaggio che crea magari più difficoltà? Di sicuro passare dallo storyboard al disegno vero e proprio non è facile, perché tutti abbiamo stili diversi e non tutti siamo, anzi la maggior parte di noi comunque, anche quelli che sanno disegnare, però lo fanno magari per passione, quindi non per lavoro. E quindi forse questa è la parte più difficoltosa. Comunque penso che sia un'esperienza interessante averla fatta. Sì, molto. Giacomo, quando hai preso parte a questo workshop dei fumetti, cosa ti aspettavi? E quello che ti aspettavi è quello che stai vivendo oppure è qualcosa di diverso? Allora, una delle cose che mi aspettavo era di trovare persone che avessero la mia stessa sensibilità nei confronti di quello che è il media del fumetto, comunque dell'illustrazione, e anche un interesse a quelle che possono essere tematiche sociali e criticità del territorio che... E comunque anche con la mia laurea di educatore che sto ancora studiando sono argomenti che mi interessano molto e che fanno parte del mio quotidiano. A tutti gli effetti sono aspettative che sono state riscontrate. Ma è la tua prima esperienza sui fumetti? Sui fumetti sì, in gruppo sì. Fumetti per conto mio qualcosina avevo fatto, ma nulla di che. Sì, faccio disegno più randomico, diciamo. E in questo workshop qual è il passaggio che per adesso ti ha più preso? Mi sono piaciute molto le interviste, sia perché appunto potevamo ascoltare direttamente la voce di chi abita a Pescarola, ma anche perché una pratica che mi piace molto è disegnare dal vivo le persone e quindi ascoltare e disegnare allo stesso tempo sicuramente dava un'impronta ai miei schizzi, anche un po' più personale, intima delle persone che stavo vedendo e ascoltando. Giulia, sei nel reparto disegnatori, è la prima volta che ti applichi al fumetto? Sì, è la prima volta, sono una lettrice di fumetti. Mi piacerebbe in futuro produrne altri e sì, come esperienza questa è stata la prima, proprio di approccio. E in questa prima esperienza quanto ti è risultato difficile tradurre nel disegno, nel movimento, quello che era un soggetto scritto magari? È un esercizio molto interessante perché comunque sì, il salto dalla parola al segno grafico richiede comunque molte riflessioni. Però è un esercizio che mi piace, lo trovo molto stimolante rispetto più a scrivere solo testi e secondo me forse questa è stata la parte un pochino meno difficile. La più difficile qual è stata secondo te? Anzitutto cioè capire dall'intervista al capire poi come formare la storia, i personaggi, anche come muoversi attraverso materiali che pian piano noi stavamo prendendo dalle interviste, perché quindi siamo partiti avendo tutto il materiale, quindi poi da lì lavorato, no, è una cosa che si è costruita pian piano con più persone, quindi è stata lì un po' la parte difficile, dover iniziare a ragionare sulle idee quando ancora non avevamo tutti i materiali. E questo percorso è quello che ti aspettavi, che ti eri immaginato, è qualcosa di diverso? Allora, a livello di collaborazione, anche di lavoro fatto insieme, era come me lo immaginavo e devo dire che mi è piaciuto. Magari sì, l'unica cosa che forse mi aspettavo di più era un lavoro maggiore sull'intervista delle persone, quindi fare più lavoro magari di graphic journalism, che poi pian piano in realtà è diventato un fumetto sociale, che non è altrettanto interessante, quindi anzi è stato bello il fatto che fosse una forma fluida di collaborazione. Con Federico parliamo del soggetto, perché non essendo tra i disegnatori, lui è stato applicato al lavoro di ricucitura delle varie interviste fatte per farne poi una storia narrativa, anche un po' fantastica. Che sì. Cosa ha significato questa cosa? Sì, no, è stata una bella esperienza, diciamo anche divertente, mi sono divertito, è stato istruttivo poi ascoltare le varie testimonianze. Poi insomma li ho riascoltati più volte perché mi sono occupato anche della sbobinatura delle interviste, quindi le ho visionate attentamente. All'inizio l'impatto sembra un po' difficoltoso perché ovviamente quando hai davanti solo delle parole di persone che ti raccontano la loro storia sembra difficile trasformarla in un contesto narrativo, però poi piano piano vengono fuori, diciamo, gli espedienti fantasiosi, inizia a esserci anche un po' di botta e risposta, diventa divertente e alla fine si riesce, diciamo, facendo anche un confronto fra insomma i vari produttori e disegnatori, viene fuori qualcosa di divertente. Ma quanto è complesso lavorare insieme? E lavorare insieme ha dei pro e dei contro, anche perché ovviamente hai sempre a disposizione un confronto, no? Quindi magari se ti viene fuori un'idea che potrebbe non essere idonea o pertinente, riesci sempre a ricostruirla, a perfezionarla. Invece, diciamo, il contro potrebbe essere il fatto che almeno in quelle tempistiche, ma poi vabbè, sono cose che riguardano forse non me che non sono un disegnatore, però no, in realtà per quanto riguarda il soggetto credo che avere, diciamo, una disamina che permetta di confrontare le varie sceneggiature sia un vantaggio. Cinzia, tu ti sei interessato più dall'aspetto amministrativo, organizzativo, ma che effetto ti ha fatto vivere questa esperienza? Beh, devo dire che ho trovato tra i ragazzi un grandissimo entusiasmo, anche tra i giovanissimi, i due giovani fanciulli che hanno partecipato e sono proprio della Pescarola. C'è una grande energia in questo progetto che è del tutto eccezionale, nel senso che partendo dalle interviste alla gente di Pescarola, partendo da un territorio, si arriva a formare in autoproduzione e a più voci, a più mani, un fumetto, una graphic novel. E vedo che nonostante le nostre perplessità iniziali, perché era un'avventura in cui ci siamo buttati con grande incoscienza, nonostante questo noi vediamo che i ragazzi reagiscono bene, grande energia e soprattutto delle gran capacità. Chiara, in questo workshop qual è il momento che più ti ha in qualche modo interessato? La parte giornalistica, la traduzione nello storyboard oppure la parte finale dei disegni? In verità il fatto che sia un fumetto di inchiesta, cioè il fatto di raccogliere i documenti e vuol dire che dà serietà al fumetto, perché questo vorrebbe dire che il fumetto non è qualcosa di serio, però gli dà quel taglio più, forse anche appunto quelli che appunto inchiesta sulla realtà, e quindi una cosa appunto a me mi interessa. Poi volevo anche sperimentare la parte più artistica, però ad esempio a me piacerebbe fare un progetto del genere sulla salute mentale. Quindi la tua esperienza sui fumetti in quanto tale, provami a disegnare. Sì, in realtà sono abbastanza poliedrica, più che altro sono abbastanza caotica, cioè mi prendo diverse cose, quindi poi mi metto in diversi progetti, disegno non tantissimo, però proprio perché non mi ci sto rimettendo da tanto, ho bisogno un po' di un contesto per motivarmi e mettermi in gioco. Hai detto che ti piace la parte giornalistica, però in realtà tu hai dato un input, un impulso all'elemento fantastico. Adesso non facciamo spoiler. Sì, perché poi appunto mi piace la fantascienza, comunque nel mio divagare, nel conoscere diversi ambienti, diversi contesti,

il posto dove stai. Vanno, vengono, per una vera mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. E queste non erano già le nuvole sulle periferie, ma le nuvole di Fabrizio De André. Passiamo invece a una giovane creativa, Giulia Figliuolo, che ha dato vita a questo fumetto dal nome strano, The Void. The Void racconta l'importanza di sapersi arrangiare con ciò che si ha a disposizione in un mondo nel quale tutto può cambiare all'improvviso. Questa autrice nasce a Napoli nel 95, si trasferisce a Bologna per frequentare la facoltà di antropologia, viaggia per l'Europa a bordo di un furgone impiegandosi nelle più varie svariate professioni, ma non abbandona mai la passione del fumetto. E allora sentiamola ai microfoni di Morena Moretti. Giulia Figliuolo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, pochi mesi fa è uscito il tuo primo racconto a fumetti, graphic novel, che si chiama The Void, con la casa editrice, appunto, Edizioni Vulcaniche di Napoli. La prima cosa che ti chiedo è magari se ci vuoi raccontare questa storia che tu hai messo a fumetto. Il fumetto tratta di questo ragazzo, che si chiama Leo, che una mattina si sveglia e scopre che intorno a casa sua non esiste più nulla, il mondo è completamente scomparso ed è rimasta soltanto appunto casa sua su un'isoletta sospesa nel vuoto. Quindi lui alla fine si ritrova ad avere per sopravvivere a disposizione pochissime cose, soltanto quello che appunto c'era già in casa. E poi, dato che questo ragazzo fortunatamente è un genietto, un inventore, che insomma ama le serie, riesce piano piano a ricostruire appunto cosa è successo. Il suo intento è quello appunto di ricostruire il mondo e di riportarlo alla forma di un tempo, quindi tramite vari escamotage riesce pian piano, diciamo, a trovare un metodo per riportare il mondo alla sua forma originale. È un fumetto avvincente, devo dire, perché io l'ho letto, sono arrivata alla fine, perché c'è il desiderio di capire qual è l'intreccio di questa storia, perché lui si trova in questa situazione. Il protagonista principale è questa madre che è assente, non c'è, ma è che è quella che ha determinato tutta la vicenda. Sì, la madre è fondamentale, diciamo, per la storia, anche se appunto ovviamente non essendo in casa al momento di questo stravolgimento della realtà non è presente nel racconto, però ovviamente è presente anche nei sentimenti di Leo, che comunque ritrovandosi da solo si trova molto ad aver nostalgia comunque. C'è un mondo da cui fugge forte questa madre, no? Che io l'ho interpretato come un mondo che è il nostro mondo, insomma, un po' forse un po' più in futuro, una dimensione del futuro ma neanche troppo lontana. Ed è un bruttissimo mondo, tu lo racconti così almeno. Sì, diciamo che è una dimensione distopica, nel senso che loro partono comunque dal nostro mondo, nel senso Leo comunque è un ragazzo italiano che vive in un piccolo paesino in montagna, almeno io me l'ero immaginata così. Sì. Questo mondo parallelo è una dimensione comunque distopica, estrema, da cui la madre sta fuggendo e che certo somiglia magari a un futuro appunto non troppo lontano del nostro mondo. Ecco, una versione un po' peggiore del nostro mondo. Sì, infatti tu immagini un mondo appunto dove ormai è sovrappopolato e dove si costruiscono armi per trovare altri mondi, quindi sì, non è troppo lontano dalla realtà. L'editore parla del tuo libro come un racconto appunto che esplora temi come l'amicizia, la creatività, la speranza e soprattutto la creatività, perché questi due ragazzi, lui incontrerà un'altra ragazza, questi due ragazzi insieme risolveranno un po' i problemi. Sì, diciamo che il lato simbolico del racconto è raccontare appunto questo vuoto, che è anche un vuoto magari dell'anima, no? Un vuoto che magari conoscono tanti giovani, cioè il fatto di magari non riuscire più a trovare un senso nel mondo che sta intorno. Quindi che i due protagonisti invece riescano in qualche modo a combattere questa mancanza di senso, a ridare appunto un senso a quello che hanno intorno, è perché appunto i due protagonisti simboleggiano rispettivamente la creatività, sarebbe l'inventore, insomma il più creativo dei due, e la ragazza invece simboleggia l'abilità manuale, no? Che senza la creatività. Insomma, stanno insieme creatività, abilità manuale, vanno comunque insieme, perché l'una senza l'altra, tu dici nel racconto, non si tiene, insomma, questo è. Ti volevo chiedere questo, tu come autrice esordiente, intanto come sei arrivata al fumetto, cioè la tua storia anche personale rispetto alla scelta di questo tipo di espressione, no? Sì, beh, il fumetto è sempre stato una delle mie grandi passioni, soprattutto quando sono arrivata all'età adulta, ho scoperto appunto i fumetti d'autore, le graphic novel, quindi il fatto che fosse un'arte comunque capace di completare la letteratura, no? Addirittura, nel senso che è ancora più coinvolgente per me un bel fumetto di un bel libro. Come autore ti dà tantissime possibilità, perché comunque con pochissimi strumenti hai la possibilità di creare un mondo immenso, di decidere ogni inquadratura, di decidere ogni personaggio, di far entrare il lettore all'interno del tuo mondo nel modo che preferisci, quindi questa grandissima libertà mi affascinava molto come mezzo per raccontare una storia del genere. E le difficoltà che hai trovato per pubblicare, perché in genere se ne trovano molte, le prime opere? Beh, sicuramente non è facile, ho avuto la fortuna comunque di trovare appunto questi editori di Edizioni Vulcaniche che sono molto gentili, in quel momento stavano cercando appunto di ampliare il loro catalogo di fumetti e quindi ho avuto la fortuna che gli è piaciuto insomma il mio lavoro, quindi ho trovato quasi subito, però ho mandato anche a tante altre case editrici che mi hanno rifiutato, insomma penso che sia difficile perché ci sono tantissime persone brave che fanno cose molto belle, quindi il livello è veramente alto del fumetto in Italia, diciamo. Siccome questo racconto poi finisce, come dire, con possibilità aperte, mi domandavo se la tua intenzione è quello di continuare, se ci fosse un sequel, diciamo, oppure invece rimane con questa sospensione e sono i lettori a immaginare possibili soluzioni. Per ora sì, il seguito è previsto, nel senso che The Void nasce come inizio di una trilogia che appunto dovrebbe uscire nel prossimo futuro, poi le tempistiche sono ancora da definire, nel senso che sono sicuramente cose che richiedono molto tempo, però sì, tra un paio d'anni speriamo che uscirà il secondo. E so che stai lavorando anche con degli autori, perché questo racconto tu l'hai scritto e l'hai disegnato, mentre invece c'è la possibilità anche di solo disegnare o sceneggiare i racconti, stai facendo questa esperienza disegnatrice per altri? Altri? Sì, al momento sto lavorando a un fumetto di un ragazzo che si chiama Renaldisi, che è un autore che ha già pubblicato un Betto Giallo, un'opera che si chiama L'invasione degli extraterroni, che è un libro molto carino che parla dell'arrivo degli esseri albanesi, arriva negli anni 90, delle sue peripezie da bimbo per integrarsi in Italia, colpi da grande per ottenere il visto e il passaporto, insomma. Quindi sì, adesso al momento sto lavorando al suo nuovo libro, speriamo quest'estate. È più complicato lavorare su un testo di un altro rispetto a un'autoproduzione autoriale? Beh, sicuramente meno libertà, perché giustamente devi comunque attenerti alle linee guida che ti danno e anche interpretare magari la visione che l'autore ha già formata dell'opera che verrà. Però no, è anche più semplice, perché comunque ovviamente liberandoti di quella parte di scrittura, anche di regia, c'è meno lavoro rispetto che fare tutto da solo. Comunque è una bella sfida anche questa. Sono molto contenta di farlo, perché lui è molto bravo e sono sicura che verrà una cosa bella.